Buonasera a tutti, benvenuti. Io mi chiamo Patrick Curru e lavoro alla Biblioteca Provinciale Claudio Augusta, che ha organizzato questa serata, naturalmente in collaborazione col Centro di Psicosintesi. Vi ringrazio di essere qui di nuovo, così numerosi. Questo è il secondo appuntamento, c'è stato un secondo venerdì di grande successo. Il primo venerdì abbiamo avuto anche una grande e bella partecipazione, quindi vi ringrazio e ripeto anche il ringraziamento che ho fatto il venerdì passato al Centro di Psicosintesi, perché è una collaborazione che veramente ci sta dando grande soddisfazione, quindi sono molto contento. La Biblioteca Claudio Augusta è molto contenta. Io non vi voglio rubare troppo tempo, vi ricordo solo un paio di cose. La collega Monica, che vedete girare qui della biblioteca, che farà un po' di foto, ha portato su dalla nostra biblioteca alcuni libri che sono qua a disposizione, sono in prestito, ecco, chi volesse prendere in prestito i libri si può iscrivere, chi non fosse già iscritto può farlo tranquillamente. Chi invece vuole acquistare dei libri, anche l'ultimo libro, quello che verrà presentato qui questa sera, può rivolgersi a Renato lì in fondo, che ha al suo tavolino, quindi potete rivolgervi a lui per l'acquisto. Invece io, prima di lasciare la parola a Marta, vi ricordo l'appuntamento a Mara, scusa, gliel'ho chiesto 10 volte, chiaramente ho sbagliato. A Mara vi ricordo l'appuntamento di lunedì, un altro appuntamento organizzato dalla biblioteca, qui alle ore 18, quindi lunedì, sempre in questa sala, presenteremo il libro Colonie Letterarie. Qui ci sono delle cartoline, se volete prenderle potete prenderle tranquillamente. Lascio la parola a Mara, vicepresidente del Centro di Psicosintesi, e vi ringrazio ancora di essere venuti qui così numerosi e vi auguro buon ascolto e una buona serata. Grazie a tutti. Buonasera, a nome del Centro Psicosintesi, due parole per chi di voi non lo conosce, soltanto per così collocarlo. Il centro nasce più di 30 anni fa a Bolzano come emanazione dell'Istituto di Psicosintesi Italiano. La psicosintesi è un metodo psicologico attraverso il quale è possibile imparare a conoscere se stessi e ad amministrare al meglio le nostre potenzialità, i nostri talenti e a limare i nostri difetti. Due cose sono molto importanti nella metodologia della psicosintesi e sono: attraverso l'autoformazione, il principio di conoscere se stessi per possedere i propri talenti, appunto, e per poi poterli trasformare. E la seconda cosa molto importante è che quando si fa l'autoformazione, ossia si inizia questo processo di cambiamento, lo si fa in gruppo. Naturalmente esiste anche la psicosintesi terapeutica, esiste quella educativa, esiste quella esoterica, però all'Istituto, al Centro di Bolzano, noi facciamo psicosintesi e autoformazione. È proprio rivolto alle persone che non hanno grossi problemi, diciamo, che dovrebbero rivolgersi a un psicologo, un psichiatra, semplicemente persone che vogliono migliorare la loro qualità di vita, vivere più in armonia. E a questo scopo ci sono dei corsi di autoformazione. Vedete che ho in mano il programma, questo è il nostro programma, ormai ci stiamo avvicinando al termine delle nostre attività per quest'anno. È possibile frequentare dei corsi di informativi, dei corsi introduttivi che sono gratuiti, e l'altra cosa importante della psicosintesi è che è estremamente esperienziale, cioè naturalmente c'è una parte teorica, però prevalentemente si fanno delle esperienze, si fanno in gruppo, in modo che gli altri facciano da specchio a noi, in modo che quello che noi magari non abbiamo il coraggio di dire o non riusciamo a individuare noi stessi, attraverso lo specchio degli altri ci venga reso noto. E quindi in queste esperienze di solito si scrive, si dipinge, c'è del movimento, qualche volta si fanno dei suoni, insomma ci sono tante attività. Adesso lascio la parola alla direttrice, Annalisa Gemma, e al nostro relatore di questa sera, e buona serata a tutti. Buonasera, mi fa estremamente piacere vedervi così numerosi alla presenza del professor Desè, con il quale abbiamo incominciato a collaborare casualmente, ma non per caso, 2 anni fa con conferenze e seminari al centro. Il professor Desè presentarlo non è propriamente semplice, in quanto è docente universitario, lo è stato a Gorizia in scienze sociali, lo è stato alla Bicocca e lo è tuttora a Milano, e quindi è giornalista, autore di numerosissimi libri di grande spessore, e molti dei quali sono stati tradotti non soltanto in lingue nostre europee, ma anche arrivano fino al Brasile, se non è più vero. La collaborazione era sorta da una domanda dall'interno del centro di psicosintesi. La figura di Roberto Saggioli è legata alla figura di Freud e alla figura di Carl Gustav Jung. E quindi, perché non chiedere direttamente al professor Desè quali fossero le affinità o le distanze del modello assagioliano con il modello junghiano? E tutto questo soltanto come corollario, perché in realtà alla base della collaborazione è sorta subito una domanda, che è stata proprio quella della scoperta di sé. Ognuno di noi ha dentro un mondo molto ricco, ampio, con forze ed energie che a volte paiono oppositive, ma che giungono spesso invece a incontrarsi, ad allinearsi e a fondare dentro di noi nuovi sentieri, nuove vie, nuovi riconoscimenti. Quindi ci siamo trovati spesso su alcune azioni e alcuni verbi comuni, che uno appunto è quello di conoscersi o riconoscersi. L'altro era ad esempio il nominare delle parti di sé, che sono appunto forze, sono energie, vocazioni o, come diceva Mara prima, potenzialità che spesso lasciamo latenti ma che esistono e sono lì pronte per essere appunto scoperte. E non solo, c'è un ritrovarsi spesso e volentieri, quindi un movimento di riorientamento. A volte avviene inconsciamente, a volte invece con tecniche e processi in un modo molto più conscio e proprio. Tutto questo perché? Perché bene o male andiamo a scoprire dentro di noi dei livelli di senso e quindi a partire da quello che c'è dentro di noi in ascolto di sé. E a questo lascio la parola direttamente al professor Desè. Grazie Gemma, grazie alla biblioteca di Bolzano che ci ospita in questa bella sala, grazie al Centro di Psicosintesi con cui prosegue quindi questo lavoro. Sentite, va bene il microfono? Grazie. Iniziato appunto 2 anni fa. Io sono molto interessato al vostro lavoro di autoformazione. Questo è un aspetto che sta molto bene dentro il percorso da Assagioli a Jung e sta molto bene all'interno dei miei interessi personali, perché è un percorso molto diverso dalla strada corrente della psicologia contemporanea, perché la psicologia contemporanea, molto influenzata dalle psicologie comportamentiste americane, è diventata sempre di più una psicologia di adattamento alla situazione esterna e quindi produttrice di nuovi disturbi, di nuove nevrosi, perché anziché realizzare le risorse personali, le risorse del sé, mette a tacere, cerca di trovare delle strategie di silenziamento di queste energie per costruire degli adattamenti fittizi. E naturalmente questo diventa poi un lavoro, se mi passate la parola, ma per arrivare un po' dunque, di killeraggio dell'individuo. È esattamente il contrario di quel diventa te stesso su cui appunto nasce la psicologia occidentale e a cui fa riferimento questo libro che presentiamo stasera e il lavoro che abbiamo fatto seminariale, che abbiamo fatto l'anno scorso e che continueremo quest'anno. Che è un lavoro appunto di valorizzazione delle forze personali e quindi delle vocazioni personali, un lavoro di scoperta di sé, quel diventa te stesso che l'oracolo di Delfo forniva come prima risposta al viandante, al pellegrino che chiedeva lumi sulla propria esistenza e su cosa fare in una situazione piuttosto che un'altra. Prima di tutto diventa te stesso, non adeguati alla società. Ma qui c'è da rovesciare proprio il vaso della psicologia contemporanea, soprattutto quella praticata, quella di cui parlano i media, eccetera, che è una psicologia, ripeto, di adattamento. Quindi una psicologia di mascheramento. E non di svelamento. E non di svelamento, assolutamente, perché anzi ci chiede di mettere altri veli su di noi, sulla realtà, per stare meglio. Ma in realtà questo stare meglio è uno stare malissimo. E voi avete appena finito un piccolissimo lavoro ripreso su questo impressionante fenomeno degli hikikomori, che sono milioni nel mondo ormai di giovani che si rifiutano, cercano di mollare la scuola appena possono, poi si rifiutano ad andarci, si chiudono in casa e si barricano nella loro cameretta e non vogliono più vedere nessuno. Ma questo disturbo che poi, di cui la psicologia ha dovuto occuparsi, perché è un esercito in realtà nascosto, perché si nascondono prima di tutto perché non vogliono avere a che fare con nessuno, ma anche vengono tenuti nascosti dai genitori che non sanno, che si vergognano moltissimo di questa situazione perché la sentono come fallimentare, ma non sanno come presentarla e come elaborarla. Quindi non si vedono, si vedono che ci sono tantissimi, è cominciato in Giappone, si è visto, è stato nominato in Giappone, hikikomori significa i ragazzi nascosti, i ragazzi rintanati in casa, che non escono, dove si chiudono e non escono più. Ma perché non escono più? Perché c'è un rifiuto, si sentono completamente inadeguati a relazionarsi con gli altri nel modo narcisistico corrente, cioè presentando un volto adeguato, un aspetto adeguato appunto alle domande collettive, e di fronte a questo si chiudono, rifiutano questo modello e rifiutano in un certo senso anche la vita. Poi per fortuna appunto questo narcisismo, che in realtà è anche loro, li salva, in realtà il tasso di suicidio è molto basso, però si sottraggono a questo gioco appunto di mascheramento e adattamento, no? di fronte a questi obiettivi, il consumo, l'immagine, eccetera, non voglio saperne niente, non mi interessa adeguarmi, e però naturalmente qui sono migliaia e milioni di persone, di giovani, che si sottraggono alla vita e sottraggono le loro energie alla società. Quindi dobbiamo ripensarci, no? Dobbiamo ripensarci. Stasera parleremo di questo. Credo che Gemma, tu avevi anche delle domande sul per entrare proprio in argomento, e sono pronto a rispondere, così come a tutti voi, però mi interessava proprio partire da questa puntualizzazione. Voi qui state un lavoro che coincide ampiamente col mio e naturalmente con questo processo di individuazione di Jung, che era proprio un puntare il lavoro psicologico sulla scoperta di sé e delle proprie risorse personali, che, come vedremo, finiscono poi, una volta ascoltate, con l'organizzarsi in una sorta di processo in cui si presentano in qualche modo, in modo anche abbastanza diciamo sensato, man mano che vengono riconosciute, e costruiscono un vero percorso di trasformazione e di riconoscimento contemporaneamente, che porta anche nella società individui non bisognosi di supporto, ma anche non disposti a contraffarsi, e piuttosto a portare le loro personali e autentiche risorse. Grazie. Quindi la prima domanda è proprio quali sono le immagini, le figure di questo processo di individuazione. Va bene. Me l'hai proprio estratta. Okay. Allora, si tratta di diverse figure, molto interessante questa idea. Perché delle figure? Perché delle immagini? Ma Jung appunto riprende questa riscoperta dell'inconscio, in realtà che non è una scoperta dell'inconscio, perché sull'inconscio, come il libro racconta, lavorava già la filosofia greca 2500 anni fa, quindi l'inconscio è lì da sempre. È la riscoperta, diciamo, dopo tutta una rimozione diventata particolarmente forte dopo l'illuminismo, appunto, dell'inconscio, no? Che è stato detronizzato, così, diciamo così, dalla coscienza. Freud lo riscopre per certi versi, riscoprendo il sogno, anche il valore del sogno, che però tratta in un certo modo rispetto all'amplissima conoscenza dei sogni che l'uomo aveva anche qui da millenni, all'interno del cristianesimo, ma anche all'interno dell'ebraismo, all'interno della tradizione islamica. E quindi, diciamo, razionalizzando questo nucleo molto importante che è il riconoscimento del sogno. E però Jung fa un'operazione più profonda in qualche modo, perché mette proprio l'inconscio non come supporto e luogo dove identificare un rimosso che sarebbe prodotto da eventi traumatici e dalle patologie personali, ma proprio come questo mondo altro, che in realtà è il mondo psichico e spirituale dell'individuo, dell'essere umano, ma anche intorno del cosmo e di tutta la realtà. E quindi questa ascolto, scoperta e integrazione di questo inconscio per riconoscere quale possa essere un conscio e una vita quotidiana appunto dotata di senso, quindi non propostaci dalle circostanze, dalla situazione, ma proprio il nostro senso. Il senso, poi dirà anche Husserl, che in qualche modo lavora su questo percorso della nostra esistenza, e tutta la psicologia, la Dasein psicologia tedesca lavora in questo orientamento. Quindi qui l'inconscio diventa veramente molto importante. Allora, quali sono queste figure? Adesso magari le dico abbastanza velocemente, così puoi tornare a voi anche con le vostre domande. Ma diciamo, intanto riferiamoci a una figura che inizialmente, all'inizio di questo processo, non è ancora ben chiara, però è presupposta, che è l'io. L'io come centro della coscienza, che certo esiste, perché anche la persona in autoformazione o all'inizio del percorso individuativo ha l'io, che firma il modulo di richiesta di partecipazione al seminario, eccetera, eccetera. Però non sappiamo bene quale sia la consistenza di questo io, la consistenza e il bagaglio personale, le risorse reali di questo io sue, e che non siano, diciamo, il risultato di una serie di situazioni appunto biografiche, di nascita, eccetera. Quindi questo io c'è, questo io è molto importante che si ponga soprattutto all'inizio anche di un processo di autoformazione, sapendo bene quale è l'importanza della sua presenza e del suo ruolo, ma in una posizione anche di grande apertura e di grande ascolto a quello che si presenta. Questa in fondo è anche la situazione del bambino. Il bambino sano, il bambino che va a scuola, il bambino curioso, vitale, anche lui ha un nome, un cognome, firma qualcosa, o comunque qualcuno firma per lui, più tardi firmerà lui i primi temi, le prime composizioni, ma è molto importante che ascolti innanzitutto se stesso, e quindi cos'è che gli interessa veramente. E noi abbiamo una grande pista di autoriconoscimento, perché le nostre passioni, sia iniziali, infantili, quando siamo piccoli, sia anche di grandi, individui, per esempio in autoformazione, sono le indicazioni più precise per capire da chi si ha. Sono indicazioni molto importanti, perché, e qui anticipo uno dei termini che useremo poi, incontreremo poi durante il processo, nella passione personale noi troviamo già dei primi aspetti del sé. I primi aspetti di quello che riconosceremo più tardi come il centro della nostra personalità collettiva. Poi adesso vado svelto, così poi Gemma interviene. Una delle cose che può fare questo io, che incomincia a essere in contatto, attento alla propria passione, è prestare anche attenzione alle proprie maschere, ai propri vestiti, a quello che nel preferiti, a quello che Jung chiama nel processo di individuazione la persona, a cui oggi ridotta a come dire, obbligatorio mascheramento, perché la moda è quella lì, l'influencer ti dice di fare in quel modo, eccetera, ma in realtà è molto interessante capire tu come vorresti vestirti, come vorresti mascherarti, come vorresti presentarti, perché questo, di nuovo, come la passione, è un aspetto intermedio, ma vedremo perché, eccola che ho cominciato a brodolare, perché il vestito è così interessante, che cosa esprime, cosa nasconde, che sono le due facce della persona, che devi vedere entrambe, e anche qui nell'interpretazione psicologica, come moda, naturalmente c'è un silenziamento di tutta questa scoperta, processo di scoperta, di nascondimento e di espressione personale. Allora, il primo gioco, il primo, direi la prima situazione di prova importante dell'io, che abbiamo visto nel seminario poi dell'anno scorso, è proprio questo dialogo con la persona, che incomincia a esprimere delle preferenze apparentemente superficiali, ma in realtà estremamente importanti, che sono dei primi segnali, delle prime informazioni all'io: guarda che mi piacerebbe essere questo e quello. Il bambino che dice voglio fare l'aviatore non lo dice a caso, e va ascoltato con grande attenzione anche quello che dice voglio fare il ferroviere, perché sono due tendenze, due legami profondi con l'aspetto celeste, spirituale, appunto del cielo, e con l'aspetto terrestre, ferrigno, della ferrovia, che come strumento anche il movimento, che naturalmente sono tutto un programma di vita e una dichiarazione di senso, però devono essere appunto riconosciute e valorizzate. Ecco, da lì si parte. Abbiamo aggiunto anche altro, che c'erano anche due altri aspetti. Uno, che nel processo comunque di individuazione, mano a mano che andiamo verso lo svelamento, si assume anche la percezione di una libertà. E dall'altra parte, e questo forse è un pochino più psicosintetica come visione, perché a Saggioli ampliò rispetto a Jung, abbiamo una stella sotto che è la stella delle funzioni, ampliò rispetto a Jung da 4 a 7 le funzioni, mettendo al centro proprio con l'io la volontà, la funzione della volontà, che delineava come mani e piedi dell'io, quindi gli strumenti per poi stare nel mondo in manifestazione. Quindi anche questo rientra nel processo di individuazione, punto certamente, di domanda. Certamente, perché la volontà è uno strumento indispensabile dell'io, il quale anche qui deve, secondo Jung, e anche per certi versi secondo tutto la conoscenza del processo individuativo precedente, anche partendo dai greci, da Orfeo, i frammenti orfici, Pitagora, eccetera, deve giocare abilmente tra l'io, deve giocare abilmente tra una posizione di ascolto dell'esterno e una posizione affermativa personale, che esprime, una volta che incomincia a avere raccolto una serie di informazioni e di notizie su di sé, le proprie direzioni, le proprie energie, che gli fanno dire, gli consentono di dire: io voglio andare lì, io voglio andare in quella direzione. Allora, a quel punto la volontà è importantissima. Prima è meglio che si eserciti anche la volontà stessa, come io voglio conoscere me stesso, voglio portare avanti questo processo conoscitivo, che poi man mano che cresce esprime delle direzioni operative. Beh, a questo punto devo andare da quella parte, e lì la volontà deve essere massicciamente impegnata, anche con aspetti di esclusione di altri interessi, eccetera. Un investimento molto preciso, forte e continuo. E naturalmente questo sappiamo che nella filosofia moderna era stato anche visto bene da Brentano, eccetera, che Sartori anche conosceva. Quindi è stato un passaggio molto, molto forte, e anche, dobbiamo dire, molto rimosso poi, sì, da tutto lo sviluppo di questa psicologia dell'adattamento, che è quella, diciamo, del sistema, insomma, per usare un termine un po' rapido, ma che ci aiuta a capire, nel senso che è la psicologia che interessa le grandi istituzioni produttive, politiche, eccetera, per mantenere in piedi appunto un sistema dato però al di fuori e prima del riconoscimento e dell'adesione personale degli individui. E prima diceva il professore che allora l'io, manifestazione, però diventa anche recettivo di sé, del sé. E di sé diventa recettivo al sé, ha detto prima, eccessivo, recettivo, quindi che gira, come dire, capovolgendosi a un certo momento, recettivo. Sì, sì, scusa, sentivo recessivo. No. Speriamo di no. No, fortemente recessivo. Speriamo che il recessivo e l'ombra venga integrata. Quindi diventa recettivo al sé. Quindi è come se il vero, a un certo momento, il vero motore anche dell'ampliamento nostro interiore avesse a che fare con sé. Assolutamente. E questo, appunto, riprendendo l'esempio, per esempio, del bambino aviatore, del bambino ferroviere, proprio fin dalla persona. La prima, lui dice, manifestazione mascherata del sé è spesso proprio la persona del bambino, come lui vuole vestirsi, cosa vuole fare da grande, perché è una persona, un vestito, una maschera, contenitore però già di passioni, di direzione, di senso, in cui si esprime proprio la vocazione personale, molto importante. E quindi il bambino va ascoltato molto, e anche però il puer, il bambino dentro di noi, anche nei processi di autoformazione, perché per stupido che possano sembrare alcuni atteggiamenti, sono estremamente indicativi della personalità profonda e delle sue vocazioni, del senso del suo sviluppo. Quindi ecco, in questo processo è molto importante che l'io, che è il pilota necessariamente di questo, abbia una posizione molto aperta, molto, molto versatile, molto curiosa, un po' come un imprenditore che sia disponibile agli input che gli portano i dipendenti, per strani che possano sembrare, diciamo un imprenditore realmente moderno e intelligente di oggi, no? Fai questa cosa, dici questa cosa qui, vediamo un po' come può funzionare. Che poi è anche il buon maestro per certi versi, che accoglie interessato l'input del che il suo insegnamento, se è bravo, ha anche contribuito a suscitare l'input strano che gli porta il ragazzino. Questo. Allora, man mano che questo io raccoglie questi input, queste proposte di velamento, perché anche appunto il velarsi è molto importante, è importante che venga rispettato, no? E qui c'è un'altra grande violenza della psicologia contemporanea che tende a non rispettare il silenzio del bambino, la sua discrezione, no? Da questo punto di vista anche tutta la dinamica del social è estremamente violenta, no? Che uno debba dire continuamente dov'è, cosa sta facendo in questo momento. Io ho una pagina Facebook, ma ogni volta per tenere i contatti e anche annunciare questa serata di stasera, no? Presentata su Facebook. Ma la prima cosa che mi chiede Facebook quando apro naturalmente è: dove sei? Con chi sei? Naturalmente non rispondo, ma è ben una grossa violenza, no? Se ci voglia te lo dico, se no non stare a chiedermelo, perché pensiamo l'adolescente, insomma, che è pressato ad uno svelamento costante, e i chicomori ci sono anche per quello, perché dico vabbè, allora andate tutti a quel paese, poi mi chiudo nella mia cameretta e lì poi dirò dove sono e se ci voglia, e se no non dirò niente. Quindi ecco, questo accettando queste rivelazioni autentiche della persona, del piccolo o anche dell'aspetto puer dentro di noi, dell'aspetto piccolo che incomincia la persona in autoformazione a mettere fuori delle maschere, delle mascherature, delle proposte che sono sempre quelle proposte mascherate, naturalmente, certo. No? Come non possono essere altrimenti, ma proprio per questo, perché velano e perché mascherano, e in quel modo anche rivelano, no? Sono le due facce della maschera. Voi sapete che i bravi artigiani a Venezia, nella Commedia Italiana e nel Carnevale di Venezia, sono quelli che fanno delle maschere che da una parte perfettamente rappresentano una maschera, ma dall'altra parte sono perfettamente aderenti al volto della persona, quindi con questa doppia fedeltà alla maschera e al soggetto. Lavorando su questo, Dio incomincia ad avere delle informazioni molto importanti su sé. E quindi una doppia fedeltà anche a un lato che spesso e volentieri non abbiamo tanto di andare a vedere, cioè il lato ombra che è comunque dentro di noi. Allora, con questa immagine e questa figura che cosa facciamo? Questa immagine e questa figura, come abbiamo visto anche l'anno scorso nel nostro seminario, naturalmente ci inquieta molto, perché Robert Bly dice che è un grande sacco in cui il bambino incomincia a buttare dentro della roba che non vuole vedere perché lo disturba fin da piccolo, eccetera, soltanto che poi arriva a un certo punto nella vita che il sacco è diventato così pesante e lui deve accettare di guardarci dentro, no? Ed è questo momento molto importante del confronto con l'ombra. Luogo inquietante di energie che abbiamo sentito e quindi generalmente anche sono per certi versi negative o sono state negative, anche semplicemente perché ci facevano paura o addirittura orrore, o erano troppo forti per noi, o sentivamo che erano portatrici di forze profondamente sbagliate. Ma comunque arriva un momento nella vita in cui dobbiamo riconoscerle una per una e vedere se veramente non c'entravano nulla con noi, oppure per esempio se erano, le abbiamo rifiutate perché erano estremamente così forti che ci richiamavano molto fortemente e noi non volevamo per esempio impegnarci. Nella vita dei santi quasi sempre troviamo questo richiamo spirituale fortissimo che si è presentato a un certo punto e che molto spesso è stato rifiutato, perché l'individuo ha sentito che ne andava della propria vita, nel senso che se ascoltato questo ti avrebbe completamente preso, ti avrebbe completamente posseduto, e quindi non l'hai fatto, non hai ascoltato, hai rimosso, eccetera eccetera. Naturalmente queste, a volte invece queste forze le abbiamo effettivamente rifiutate perché erano delle forze maligne, delle forze devastanti, delle forze che ci avrebbero portato a delle dipendenze anziché a delle espressioni, a delle dipendenze feroci e distruttive, e quindi le abbiamo rifiutate. E quindi anche quando viene questo momento del confronto con l'ombra, le rifiuteremo con ancora più forza, con ancora più determinazione, con un'assoluta volontà di escludere dalla nostra vita, che sarà tanto più forte quanto più sarà chiara, avremo raggiunta attraverso un riconoscimento diretto, profondo, della nostra identità, della nostra direzione e della natura di queste forze. Quindi il cambio di prospettiva. E un cambio di prospettiva permette anche proprio all'io di, come dicevamo prima, di ricevere la forza motrice, dinamica, spirituale anche del sé. E l'anima in tutto ciò? Questo, fin dove può, cioè fin dove arriva l'uomo e fin dove arriva nel silenzio dell'anima, nel proprio silenzio più profondo, una forza alta, profonda e diffusa. Sì, devo dire che oltre al, è un cambio di prospettiva che poggia però su un'integrazione di nuove forze, perché il risultato di questo confronto con l'ombra è appunto che alcune cose le butti per sempre e diventano veramente, diciamo, degli aspetti antagonistici con cui ti misuri per il resto della vita, in modo estremamente conscio, determinato e attento. Ma altre le ha integrate. Sì. E quindi in questo confronto con l'ombra l'io cresce enormemente, diventi veramente un'altra persona, sia per ciò che hai integrato sia per ciò che hai rifiutato, perché è un flusso, un'incorporazione di un'enorme quantità di energia. E quindi sei un altro. A quel punto appare l'anima, a quel punto appare l'anima che magari è apparsa anche prima, ma diciamo a quel punto è un incontro, diventa un incontro inderogabile. che è proprio questo aspetto anche della psiche personale, che non ha più bisogno di un'affermazione del proprio potere, come in qualche modo era l'io, ma è autenticamente disponibile e capace di ascolto. Diciamo, in qualche modo l'ascolto integrazione della persona da parte dell'io è stato anche, ha avuto anche degli aspetti giustamente opportunistici, appunto da capo d'azienda intelligente, ma questa è un'ottima idea, questa è la maschera che mi sta proponendo questo ragazzino, e quindi la integro. Qui siamo a un altro livello, a un'altra ampiezza proprio di personalità, per cui il tuo interesse non è più quello del capo d'azienda, di fare affari, è proprio avendo integrato tutto ciò che era integrabile nell'opposizione, in ciò che negavi, nel contrario, e avendo rifiutato il resto, tu sei libero. Qui è veramente una situazione di libertà, qui comincia la libertà e qui comincia l'anima, che non ha più a che fare, non ha più nulla a che fare col, diciamo, distinguiamolo molto rapidamente, i suoi aspetti ancora più psichici, quindi più bassi, più legati ancora delle situazioni esistenziali, materialistiche, ancora il possesso, effettivamente, pensiamo al possesso della madre sul bambino, insomma, queste strutture molto difficili da sciogliere, o anche il possesso dell'innamorato per l'innamorata, insomma, nei suoi aspetti più grezzi, più rozzi, no? È anima, ma è un'anima ancora molto psichica, poco spirituale, c'è del possesso di me, il possesso prevale ampiamente sul dono e sull'armonia, siamo prima. Ma l'anima vera e propria è l'anima che è già in contatto con lo spirito e che comunque ci porta allo spirito, è l'anima che vive di dono, è l'anima che ci porta la grazia anche come stile di vita, come modo di vivere la propria affettività, le proprie relazioni. E questa è un'anima che guarda e che è ascoltata dallo spirito e quindi dal sé. Un'anima che mette molto in crisi anche certi aspetti del vecchio io. Nel libro parlo del caso di Otello, con tutte le sue resistenze maschili di generale della Repubblica di Venezia, con questo Iago dietro che continua a riproporgli una serie di paranoie, poteri maschili, eccetera, eccetera, che non riesce a aprirsi pienamente all'incontro con Desdemona, anzi la uccide. Quindi questo è uno dei possibili risultati infausti di questo incontro. Naturalmente ce ne sono molti altri, ma non è un'operazione semplice, non è un'operazione facile. Io non ho capito se serve questo coso qui. Sì, sì, sì. Secondo voi serve, sì. Va bene. E allora, non so se ho... Quindi apertura transpersonale. Quindi c'è, sì, questo ascolto, questa direzione, questa comunicazione con lo spirito da cui l'anima è appunto animata, è già una comunicazione transpersonale, cioè qui noi passiamo appunto dal mondo dell'intersoggettività ancora dipendente dell'anima psichica all'intersoggettività trascendente, del piano trascendente, dove siamo nel campo transpersonale e quindi al di là dell'io, al di là del possesso, e abbiamo a che fare con sé. In sé si incomincia a esprimersi con costanza, e lì nel libro c'è tutto questo discorso che è un po' una mia fissa, proprio alla, partendo dal maschile che è stato, che ha, in cui mi sono impegnato in gran parte del mio lavoro, sull'importanza dell'anima come vergine, sì. Che è la figura vergine naturalmente psicologica, ma questa figura di femminile integro che ha una relazione diretta col sé, proprio perché non è impegnata totalmente nella materia come in qualche modo la madre. Quindi il soprattutto il maschio, ma anche la donna, è molto importante che recuperi questa dimensione della vergine, dell'intatta, come strumento molto importante nel passaggio anche dal punto di vista della propria identità femminile a un femminile in relazione diretta e costante, in qualche modo ispirato appunto dallo spirito. È una cosa pochissima, non tanto sviluppata neppure da Jung, e praticamente ignorata da gran parte della psicologia contemporanea, anche junghiana, che non gli ha prestato molta attenzione. Di più effettivamente alcune donne, Marion Goodman eccetera, diciamo psicologhe americane degli anni 90, 80, 90 così, hanno abbastanza sentito e lasciato dei testi che io in parte ho cercato anche di far tradurre in questa collana Immagini del Profondo, dove ho tradotto Bachelard, altre cose, e quindi dovrebbero essere disponibili anche nel mercato italiano. Lasciamo le domande al pubblico. Sì, forse una notizia che forse interessa, che quest'anno, appunto l'anno scorso, abbiamo lavorato su questo gruppo, di primo gruppo di figure del processo individuativo, quindi persona, io o ombra, e quest'anno lavoreremo appunto sull'anima e sul sé, sì, in questi, con due seminari appositi. Proprio proprio sabato 2 marzo è proprio sui percorsi dell'anima, mentre le manifestazioni del sé il 6 aprile. Ma queste informazioni, o per chi fosse interessato, poi siamo comunque in fondo alla sala, quindi possiamo darle alla fine anche della conferenza in modo tranquillo. Sì. No, ma volevi dire? Lasciamo qualche domanda al pubblico? Sì, sì, sì. Sì, parlando del bambino, no? Un bambino che va ascoltato e attraverso il gioco, quello che esprime, è possibile già individuare nel suo immaginario che cosa vorrà fare da grande. Ora, a parte che appunto hanno spesso delle idee molto grandiose, per cui pensare di portarle a realizzazione è difficile, no? Fare l'astronauta, per esempio, parte che abbiamo in casa qualcuno che c'è riuscito. Sono soletti. No, io domandavo quanto invece mettere paletti e porre dei limiti, cercando di far capire comunque quanto serve l'impegno, quanto possa essere utile, insomma, creare difficoltà, non negando quello che possa essere il loro interesse, non ascoltandolo, ma quanto può essere utile diciamo, se creare delle difficoltà ai bambini nel loro esprimersi. Forse non riesco a riconoscere i limiti. Sì, riconoscere i limiti, nel senso che molto spesso i bambini si lasciano anche portare da un immaginario collettivo, cioè se si ordina una bibita al bar, molto spesso, e sono tanti bambini, tutti quanti si fanno fino a trascinare, insomma, imitano gli altri, no? Ecco, quanto è importante far capire loro, cioè creare loro difficoltà in modo che si rendano, che sviluppino una tale forza di volontà nella loro idea da cercare di imprimere proprio la propria volontà. Mm-hmm. Sì. Dunque, ma intanto volevo dire qualcosa su questo grandioso, no? Perché da una parte ha evidenti aspetti narcisistici, no? Questo fare su questa terra, voglio andare negli astri a vedere cosa c'è, insomma. Però in questo dobbiamo, poi possiamo decidere di contenerlo in qualche modo, però è molto importante riconoscere la dimensione e anche la tendenza all'ampliamento. Ecco, direi che nel rapporto col bambino è sempre molto importante riconoscere nelle loro fantasie, nelle loro proposte, qual è la tendenza. Perché, per esempio, la tendenza all'ampliamento ha dei rischi poi di grandiosità, ma la tendenza al restringimento, che può avere degli aspetti positivi, nel senso che, per esempio, in molte fantasie, in molti giochi, in molte realizzazioni, i bambini si pongono loro stessi dei paletti. Però dobbiamo stare molto attenti fin dove vanno, e cioè così come la grandiosità può sfociare nell'inflazione, naturalmente, nella perdita di confini pericolosa, così il restringimento può essere asfissiante e impedire una respirazione più ampia. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti in questo, certo viviamo in una società narcisistica, inflazionata, e quindi e poi il bambino lo è in partenza, perché viene in qualche modo dal cosmo, quindi così fa anche fatica a stare in una dimensione continuata. Però è vero che è una dimensione molto pericolosa, però dobbiamo stare attenti a non diventare troppo contenitivi. Qui è un gioco molto, molto sottile che va esercitato con molta responsabilità. È certo che il limite è necessario per lo sviluppo, perché senza contenimento non c'è forma. Se non mi do un confine, io non posso formarmi. Quindi da questo punto di vista, appunto, certi slogan correnti, non costruiamo muri, costruiamo ponti, sono anche assurdi, perché va benissimo costruire dei ponti, ma se non costruisco un muro non costruirò mai una casa, e quindi non ci sarà mai un'abitazione dentro la quale stare. L'io ha bisogno di muri e i confini devono essere dati, però dobbiamo essere estremamente attenti a questa dinamica, cioè consentire sempre una dimensione di allargamento e di ampliamento, anche perché nella vita del il destino del bambino è quello di allargarsi, per forza, il piccolo, il suo universo è quello lì, le sue conoscenze sono quelle, lui dovrà allargarsi, ampliarsi, quindi questo è anche il suo destino. E quella è dunque una dimensione che noi dobbiamo tutelare, sapendo però che il confine è estremamente importante, perché senza di quello non c'è forma e c'è il marasma. Io lo ricordo delle esperienze che abbiamo anche fatto a Milano con Elvio Facchinelli, eccetera, di asili anti-autoritari nel 68, 69, 70, dove è stato anche provato l'asilo totalmente anti-autoritario, quindi senza nessun tipo di confine, ma sono state esperienze anche molto pericolose, dove era molto visibile la tendenza al marasma nel bambino, cioè proprio alla psicosi. I bambini hanno bisogno di contenimenti, ma dobbiamo essere molto delicati su questo. Il confine deve consentire costantemente, deve essere un confine mobile che consente lo sviluppo e il respiro. Fra la parola sé, sì, e consapevolezza c'è una relazione? Sì. Un'altra cosa, così, fra parentesi, sì, ho notato che il suo cognome contiene sé. Grazie, sì. Anzi, un sé accentato, esagerato. Ripetuto, era già rischioso. Terattino. Ecco, la prima cosa era sé e consapevolezza. Sì, la consapevolezza, sì. Sì, la consapevolezza accompagna tutto il processo individuativo, naturalmente. È un processo di acquisizione di consapevolezza, ma di una consapevolezza, come dire, diretta, direzionata. Cioè, devi essere consapevole di te. Devi sapere questo prima di tutto, conoscere questo, conoscere te, che è la consapevolezza, ma è anche una consapevolezza particolarmente segnata, anche qui, appunto, da sé. Ed è importantissimo in tutto il processo, ed è molto legata a un'altra parola centrale, che è la responsabilità. Tu sei chiamato in questo processo a assumerti la responsabilità di te, diventi responsabile, e soltanto in questo processo diventi realmente responsabile. Le altre sono delle responsabilità fittizie, in qualche modo accampate per aria, perché se non sei responsabile di te non sei responsabile di nessuno e di niente. Quindi è una responsabilità, ecco, sono termini, consapevolezza, responsabilità, assolutamente centrali in tutto il processo. Scusi, posso aggiungere, anche libertà fa parte di questa famiglia, giusto? Assolutamente, perché senza di quella non c'è la libertà. Se non conosci te stesso, se non diventi responsabile e consapevole, non sei libero, sei dipendente. Vittima. Sei dipendente, per esempio, dalle pulsioni. Le pulsioni sono importantissime, ma devono essere governate. Freud parla di pulsioni slegate, mette in relazione la nevrosi con la pulsione slegata, dice, certo, se non si legano, se le pulsioni sono slegate, producono patologia, producono nevrosi e psicosi, ma chi le lega? È la tua consapevolezza, è la tua assunzione di responsabilità, e questa deve essere condotta secondo dei principi appunto di autoriconoscimento, di autoconsapevolezza, altrimenti diventa una struttura autoritaria, siamo partiti da lì, quindi alienante, che è una delle ragioni per le quali, a mio modo di vedere, l'analisi freudiana, del resto ho riconosciuto con la sua idea dell'analisi interminabile l'impossibilità di arrivare a una posizione di libertà, perché se non arrivi a questo autoriconoscimento del sé, non sei libero, rimani libero o delle pulsioni o rimani prigioniero o delle pulsioni o dell'autorità, dell'istituzione, e quindi non sei mai libero. Cioè questo accesso al piano transpersonale, al piano trascendente, ha bisogno di consapevolezza e di sé, e questo ti rende libero e ti consente l'accesso all'intersoggettività trascendente, anziché quella dipendente della situazione egoica chiusa. Volevo dare che devono rimanere puri, che devono comunque rimanere. Ha parlato di limiti. Scusi, non ho sentito le prime parole. Lei ha parlato di limiti, no? Di limiti o di muri e comunque anche di controllo su pulsioni e su forme, diciamo, di manifestazione funzionale, anarchica, marasma, eccetera, eccetera, ma tutto ciò in qualche modo non è comunque allora un ritorno a un adattamento magari consapevole. Lei è partito nella sua relazione proprio da una critica a forme di comportamento psicologico che vogliono solo farci adattare a dei contesti già dati. Però ogni forma di disciplina, ogni forma di limite che mi do, anche diciamo di principi, anche di canoni etici, allora con cui controllare queste pulsioni e con cui controllare questo mio movimento psichico che potrebbe essere disordinato o egotico, cioè, sono comunque una forma di adattamento, non sarà un adattamento a ordini sociali imposti o ordini politici imposti dall'esterno, ma sarà un adattamento a leggi interiori che io posso riconoscere, nelle quali posso riconoscermi o meno, ma con le quali comunque il mio io o il mio spirito deve comunque fare i conti. Sì, ma mi sembra che anche nell'esperienza proprio si vede come ci sia una differenza fondamentale tra dei confini che ti vengono dati dall'esterno e soprattutto da un esterno diciamo istituzionale, appunto, quindi di poteri consolidati nel tempo, raccolti appunto per l'esercizio del potere, rispetto a dei confini che ti dai tu mano a mano che cresci e mano a mano che riconosci quali sono i tuoi territori di vocazione, i luoghi dove vuoi stare e quindi naturalmente che vuoi proteggere. Per esempio, nell'esperienza con la natura, che a mio modo di vedere è molto importante, è un aspetto, stasera non abbiamo parlato, ma fondamentale in tutto il processo individuativo e a cui ho dedicato diversi lavori, il maschio selvatico, la donna selvatica, che ho scritto con Molde Pareg, mia moglie, altri lavori proprio sul rapporto con la natura come aspetto costitutivo della vita in generale, della vita umana e del processo individuativo, lì si vede proprio il confine nascere dal tuo rapporto con la natura, perché man mano che entri in una natura l'ami nella sua estensione e nel suo confine, e fai l'esperienza del confine che gli dai proprio per sviluppare questa relazione. Se tu ti occupi di un giardino, per esempio, o di un orto, devi darti la dimensione del confine e devi difenderla dai parassiti, dalle erbacce, eccetera, perché sennò lo distruggono. Allora, non c'è esperienza umana che si sottragga al limite, perché il limite è funzione della forma e l'uomo ha bisogno di forma per vivere. Io posso bere quest'acqua fino a quando si trova nel bicchiere. Se faccio come prima e la rovescio, è semplicemente sparsa per terra. Questo bicchiere è un limite funzionale al rapporto con l'acqua, al poterla bere, e tutta la vita umana è una scansione di limiti. Il rifiuto del limite è una posizione di rivolta anche contro il riconoscimento di sé, il diventa te stesso, perché il te stesso avrà sempre dei limiti, altrimenti è perso nell'indifferenziazione, non saprà che nome ha, non saprà chi è, non saprà dov'è. Il nostro compagno è mobile, peraltro, e naturalmente c'è una differenza fondamentale se tra il nostro limite e un limite che ci impone una autorità autentica qualsiasi. Tuttavia questa attenzione suscitata dalla sua domanda è molto importante, perché nel processo individuativo il confine è dinamico, non è mai fisso. Noi vediamo proprio, è una caratteristica dell'esperienza individuativa, la dinamis, lo spostamento, continua a muoversi a seconda di che cosa facciamo e dove stiamo andando, e è anche questo un punto di riferimento importante per noi come verifica della nostra situazione. Cioè, se tutto è immobile, dobbiamo anche un po' preoccuparci, può essere molto interessante, ma insomma è una situazione che va costantemente monitorata. Io volevo fare una domanda rispetto a quello che possiamo fare concretamente nelle nostre vite per difenderci un po' da questa società tecnologica che ci continua ad abituare a rispondere vero o falso, giusto o sbagliato, e quali luoghi possiamo frequentare interiori ma anche collettivi per cercare di trovare delle risorse che ci consentano appunto di non soccombere di fronte a questo continuo doversi schierare da una parte o dall'altra, da rappresentato dalla tecnologia che ha solitamente un solo utilizzo e quindi inconsapevolmente continua ad alimentare la nostra ricerca di un'unica via, mentre in realtà è molto più complessa. Grazie. Sì, questo è un compito assolutamente centrale proprio per la nostra sopravvivenza, ancora più che per la nostra individuazione, certamente per l'individuazione, ma anche proprio per il nostro benessere, la nostra sopravvivenza, la nostra salute. Perché un tratto importante che dobbiamo molto ricordare della tecnologia è che ci indebolisce anche fisicamente, cioè ogni volta che noi usiamo uno strumento tecnico noi perdiamo forza attraverso in quell'operazione che lui fa al nostro posto. L'uso del microfono certamente abbassa la forza della voce, io sono sicuro, vengo in una sala così, avrò il mio microfono, mi abituo a parlare più basso, ma questa è una mia diminuzione non da poco, perché faccio meno fatica, ma respiro meno profondamente, parlo più piano, quindi questo ha tutte delle conseguenze di abbassamento complessivo della mia energia. Naturalmente la mia età mi fa molto comodo, però abituarmi a 20 anni a questa roba, per l'ultimo 20 anni c'era meno microfoni, quindi non dovevo gridare di più, la tecnologia è arrivata quando mi fa anche comodo, però devo stare molto attento a non usarla troppo, devo essere, ma non per masochismo, proprio anzi, per mantenere le mie forze, perché altrimenti le perdo. Naturalmente gli esempi che faccio anche nei miei libri, il navigatore della macchina, eccetera, mi fa perdere. Da questo punto di vista, diciamo, l'uso delle tecnologie andrebbe accoppiato con lo studio delle neuroscienze, perché le neuroscienze ti informano puntualmente di che cosa perdi ogni volta che esce un nuovo gadget, un nuovo strumento. Perde delle intere zone del cervello, il navigatore mi fa perdere tutte le zone dell'orientamento e così via, tante altre cose. Quindi ho parlato di ho sviluppato questa direzione di ricerca soprattutto nel libro Sazi da morire, che è proprio sulle varie diminuzioni anche fisiologiche, neurali, eccetera, che ci vengono la tecnologia. Quindi è una vera e propria battaglia di vita, e questo è il primo punto da sapere, cioè non è che noi difendendoci da questa roba facciamo soltanto un'operazione, diciamo, psicologicamente corretta o educata. No, stiamo proprio difendendo la nostra vita, la nostra sopravvivenza, le nostre forze, la nostra intelligenza. Allora, questo è il primo strumento di difesa, dobbiamo sapere esattamente con cosa ci confrontiamo e contrattaccare non solo ovviamente socialmente, cioè anche questo incontro di stasera è un modo di contrastare questa cosa. Voi siete qui, ascoltate me invece di tanti altri psicoanalisti che raccomandano di adattarvi velocemente, di avere tre gadget in tasca adeguati, di essere adeguati all'immagine, eccetera eccetera. Quindi state facendo un'operazione opposta, però e questa deve essere allargata a tutta l'esistenza. Allora, quando noi vediamo, per esempio, nel processo individuativo e anche nella psicosintesi in generale, l'importanza che ha l'esperienza transpersonale, il mondo transpersonale, questo è già un'indicazione molto precisa. Dobbiamo dare alle esperienze transpersonali uno spazio importante nella nostra vita. Cosa vuol dire questo? Per esempio, appunto, tutte le esperienze religiose. Le esperienze religiose sono, se sono religiose, autenticamente religiose sono delle esperienze transpersonali, quindi se condotte anche dai credenti in modo responsabile e consapevole, tu arrivi all'esperienza transpersonale, e quello è giusto coltivarla, è molto importante, è un'esperienza di contenimento della tecnologia. Poi certo, se ascolti la messa con la televisione, eccetera, cioè segui anche una serie di indicazioni che a volte vengono anche dalle chiese di ipertecnologizzazione, beh, sarà molto difficile fare esperienze transpersonali, perché ti sei ingabbiato dentro una serie di dipendenze tecnologiche. Certo, può succedere di tutto, Dio è ovunque, però è difficile per te riconoscerlo se sei dentro una gabbia tecnologicamente avanzata. Ecco, ma sostanzialmente è questo. L'esperienza artistica naturalmente è un'esperienza, è un canale di garanzie, come dire, transpersonali, trascendenti, molto importanti. Molto importante, come dicevo prima, per me, tutto il mio lavoro, io sempre lo segnalo, è l'esperienza con la natura, se possibile incontaminata, ma non appunto come semplice esperienza ginnica, sportiva, anche naturalmente, ma proprio come esperienza psicologica, quindi anche come esperienza educativa per i bambini. È molto importante la natura, la dimensione anche della natura contaminata, quindi anche della natura pericolosa, della natura non protetta, l'esperienza del rischio. Deve essere vissuta, mi rendo conto di dire una cosa un po' grave, insomma, poco popolare, ma voi poi qui state in un paradiso, quindi è anche molto piacevole, insomma, ce l'avete a portata di mano, godetevela. Io l'altro giorno ero a Milano con la nebbia, no? Il giorno prima era bellissimo, la primavera era stupendo, però poi mi sono svegliato, ho creduto a una bella aria fresca e c'era una coltre di nebbia con una puzza che ormai riconosco di rifiuti, quei cumuli di rifiuti che vengono poi bruciati, affittati dalle varie mafie e bruciati per uccidere, per guadagnare loro e uccidere noi. Che però anche lì bisognerà fare qualcosa. Sì, volevo chiedere, lei ha parlato di maschera e di persona prima, e volevo chiedere, è indifferente di mafia adesso. Maschera e persona. Okay. Sì. Il termine viene usato differentemente o c'è una differenza? No, c'è una differenza, nel senso che la persona è questo termine latino che indica il vestito, e quindi la persona segnalata dal vestito e quindi anche dalla funzione. Certo, ogni funzione amministrativa ha quel particolare vestito, eccetera. La maschera, c'è un aspetto creativo e anche manipolativo, espressivo in più, perché è qualcosa che tu scegli o in parte adotti e che si rifà non a delle funzioni amministrative, operative, come il vestito, ma a degli archetipi, a dei riferimenti archetipici in qualche modo. Appunto, la maschera del demonio o della vergine, insomma, di cose che rimandano sempre a degli aspetti archetipici, le maschere di carnevale, le maschere dei vari momenti, delle stagioni dell'anno, e quindi ti inserisci in contesti di significato precisi, più precisi in qualche modo del vestito, che pure ha una sua precisione, ma diciamo così più forti complessivamente. La maschera, stai già facendo poi un discorso di travestimento, qui dietro ci sono io, ma ti dico che sono dietro a un'altra, quindi hai a che fare con due, devi passare da un doppio passaggio, ti dico che sono un altro ma poi sono io. È un discorso più articolato di quello della, di quello della persona. La persona però è un discorso che si presta molto al, alla vita sociale, naturalmente, è meno drammatico, infatti la, la maschera è usata nel teatro, e più quotidiano, se qua per esempio diventa il dress code delle varie funzioni contemporanee. Se vai a un congresso, la mattina ti vesti in un modo, la sera ti vesti in un altro, nel pomeriggio sportivo un altro ancora. Sono, sono tre persone, sono tre vestiti che però corrispondono anche a tre modi di essere diversi. Però c'è tutto un discorso dove la manipolazione, la proposta e anche la richiesta adattativa è forte, però c'è anche una certa ricchezza espressiva, sì, anche contenutistica. Tu in una roba così sei stimolato, devi sempre stare dentro un contesto preciso, però sei stimolato da più parti, diciamo, ed è diverso del, della maggiore libertà, ma sostanzialmente condizionamento pesante che hai all'interno di una sala di manifestazioni espressive contemporanee. Se vai al Festival di Sanremo nella sala non so cosa, come dire, ti viene richiesto meno in termini di dress code, perché in fondo puoi andarci come vuoi, ma hai molto meno scambio, hai molto meno stimolo, molto meno senso, a meno che ci vai per qualche ragione specifica, per lavoro. No, volevo solo replicare, no? In psicosintesi si parla di subpersonalità e una delle cose che si impara a fare nel percorso è cercare di individuare le proprie subpersonalità, che però si riferiscono o a ruoli o a comportamenti particolari, imparare a individuarle e poi imparare a gestirle o ad evitare di essere gestite, sì, da loro. Sì. Allora, in pratica il vestito è il ruolo e la maschera è quando io scelgo quale vestito mettere. Sì, è addirittura di più che un vestito, no? Perché la maschera è proprio parte da, da un ruolo, ma appunto ha uno sfondo archetipico, quindi direttamente transpersonale. Va da, da ruolo dentro un evento direttamente, e per giunta un evento, direi, di cui si prevede in partenza che possa diventare transpersonale, come il carnevale, per esempio, o come le grandi feste dei santi, la Sant'Agata siciliana, eccetera. Lì cioè, c'è tutto un percorso espressivo anche del femminile, del, anche del, relazione, del maschile in relazione al femminile, insomma c'è tutto un, una storia transpersonale effettivamente che parla, che passa da, da, da situazioni anche quasi di trans, eccetera. Quindi la maschera arriva lì, il vestito ha sempre più delle dimensioni più quotidiane, più funzionali, e credo che si, mi sembra che si applichi perfettamente questo discorso del l'esperienza della personalità in quella specifica situazione, sicuramente. Provo a parlare senza microfono. Sì, come? Super. Voglio accennare brevemente il riferimento, lei ha parlato confini, una domanda precedente, confini, poi lei ha portato l'esempio dell'acqua, cioè io se voglio bere ho bisogno di un contenitore, poi delle maschere. Sì. Allora a me viene in mente una cosa, bisogna parlare del sé. È importante anche dare risposta, chiarire, sono un corpo o ho un corpo? Ma io risponderei direttamente appunto tutte e due. Tutte e due, perché io ho un corpo, ma anche sono un corpo. Il corpo muore, certo, ma fino a quando sono vivo sono anche il corpo. No, io penso di essere nel corpo. Non è un vestito, non è un possesso, è la forma che io ho preso, la forma fisica che io ho preso in questa esistenza, e è la mia forma dal momento in cui sono nato, con tutte le vicende della nascita, fino a quando muoio. È la forma in cui mi sono messo in questa esistenza, e quindi naturalmente ho avuto, vero, anche, ma ho qualcosa in cui sono assolutamente. E qui c'è una cosa anche molto interessante del processo individuativo che io cerco di mettere in luce in questo libro, che è il rapporto col corpo e coi corpi, per esempio i corpi della natura, eccetera, in tutto il processo. E quindi anche il rapporto, se vogliamo conoscerlo bene, viverlo bene, tra per esempio l'indagine psicologica e tutte le altre scienze fisiche che si occupano di queste situazioni. Per esempio, io ritengo indispensabile la conoscenza dell'antropologia per conoscere bene e pienamente questi percorsi. Ritengo indispensabile per certi versi, anche naturalmente, non che uno deve diventare un'enciclopedia, però uno sguardo etologico e anche di competenza zoologica e ecologica. Devo conoscere la terra, perché questa vita si passa sulla terra, e noi siamo fortemente condizionati appunto anche per reagire e difenderci dalle tecnologie. Noi dobbiamo sapere la pienezza, il significato e la potenza del nostro rapporto con la terra e col cielo, e con quella terra e con quel cielo, e come mai certe cose nascono lì e là, e perché i processi individuativi sono diversi nei vari territori, perché le religioni dicono delle cose simili ma anche delle cose profondamente diverse. Ecco, il processo individuativo è chiamato a confrontarsi con tutto questo, e la psicologia deve confrontarsi con le scienze che si occupano di questi saperi e di queste esperienze, se non vuole essere qualcosa di relativamente campato per aria. Io sento moltissimo, infatti nel libro segnalo una serie di contributi scientifici contemporanei molto interessanti su questo tema che va dalla teoria delle catastrofi di René Thom ai lavori di tanti altri che segnalo via via, e ricordo però che questa questione di individuazione comincia nella nostra cultura dall'esperienza orfica, che era un'esperienza musicale, filosofica, musicale prima che filosofica, e quindi un'esperienza matematica, e prosegue con Pitagora, che era un matematico e un filosofo. Quindi la scienza delle cose, la scienza delle armonie, la scienza dei pensieri è molto importante, e noi dobbiamo rimanere molto aderenti a questo, così come dobbiamo rimanere aderenti alla natura incontaminata, che non è uno scenario esterno ma è parte delle nostre cellule. Qui c'è tutta l'esperienza che io ho cercato di fare, per quel che ho potuto, per il tempo che ho avuto, della wilderness, della relazione appunto con la natura incontaminata, che corrisponde a una parte delle nostre cellule, che corrisponde anche al nostro cervello limbico, al nostro cervello più antico, che è quello da una parte più affettivo, emotivo, e dall'altra è quello però che ha la relazione con gli archetipi, quindi col mondo trascendente. Questo secondo me è importante per collocare un po' il nostro lavoro complessivo. Ma io sono anche il mio corpo. Grazie. Ci sia ancora qualcuno? Voglio dire che penso che il processo di individuazione personale possa partire, debba partire proprio dal corpo, perché è quello che ci dà lo strumento per mettersi in connessione con il nostro spirito e con la nostra anima. È quello che va a Delfi. Certo. A chiedere. Con il nostro corpo, è lui che ci manda i segnali. Io ci vado col corpo. Cioè, penso che fare dire solo corpo o al corpo non è importante, siamo corpo. Ma sono anche non solo. Però se voglio arrivare alla mia anima, non mi ricordo, devo passare a partire dal corpo, certo. Accettandolo. Perché dicevo prima all'inizio si è usato anche un termine che un po' mi ha fatto sopportare, e lavoriamo sui nostri difetti. E chi l'ha definito che sono difetti? Perché bisogna parlare di difetti? Sono delle caratteristiche peculiari di quella persona? No, ma abbiamo anche dei bei difettacci. No. Sì, certo, abbiamo dei difettacci, ma perché chiamarli difettacci? Perché chiamarli difetti ci aiuta a è una presa di posizione, di riconoscimento. Vede, per esempio, nelle scienze politiche a un certo punto c'è stata, e anche nell'esperienza politica, questa proibizione del nemico, no? Non abbiamo nemici. Non è vero che non abbiamo nemici. Noi abbiamo nemici tutto il tempo, e abbiamo nemici nella vita, nel senso della gente che ci dà fastidio, che ci vuole del male, con cui comunque dobbiamo confrontarci polemicamente. E abbiamo dei nemici interni altrettanto potenti. Noi dobbiamo chiamare le cose e le persone e le forze col loro nome, e cresciamo proprio in questo riconoscimento dialettico, di uno dei quali è l'amico nemico, buono cattivo, fondamentale, fa parte, e il processo individuativo si sviluppa attraverso una serie di confronti tra opposti. È stato detto all'inizio presentando il lavoro, effettivamente è una delle caratteristiche del processo individuativo. Noi siamo confrontati tra opposto, appunto, nascita e morte, corpo e anima, maschile e femminile, senex, e luce e ombra, e naturalmente il processo si svolge nella misura in cui noi abbiamo il coraggio di riconoscere l'uno e l'altro, e anche dire dove siamo noi e chi è l'altro, e costantemente dove stiamo andando, dove vogliamo andare, qual è il nostro obiettivo, e sviluppando la volontà necessaria per arrivarci. Ma in questo il nominare le cose e le qualità, che possono essere delle qualità passeggere, temporanee, io posso buttare nel sacco dell'ombra qualcosa e riprenderlo più tardi, e anzi poi integrarlo, però quando butto nell'ombra devo dire a te non ne voglio sapere, ti butto lì dentro, poi vedremo, e poi anche sapere che c'è e farci conti, altrimenti non c'è nessun processo. E quindi io sono d'accordo sul non separare il corpo dall'anima, perché hanno tutti e due un senso preciso, e noi siamo entrambi, però bisogna chiamarli ognuno col proprio nome e anche i difetti. Io vorrei parlare anche senza microfono, proprio perché rendo conto che questi vinti tecnologici ci bravo, però io mi devo, e volentieri, no, volentieri mi avvicino un po', così meglio, intanto mi sganchisco le gambe. È illuminante il fatto che le tecnologie ci possono indebolire, però d'altro canto vedo che anche le tecnologie dall'età dei primordi hanno reso possibile anche la cultura umana. Questo non si può disconoscere, che è stata una nostra potenza che ci distingue dal regno animale. Senza la tecnologia, l'intelligenza che ha portato allo sviluppo della tecnologia, non avremmo raggiunto tutto quello che abbiamo, in senso anche positivo, non solo negativo. Però d'altro canto vedo anche che quello che lei dice, i limiti, dobbiamo riconoscere i limiti. Ecco, vedo con questo senso di onnipotenza che la tecnologia ormai crea in molti di noi, vedo che anche non si rispettano più i limiti, o si rispetta sempre meno i limiti, proprio perché con l'ausilio della tecnologia ci sentiamo quasi onnipotenti. E vedo anche che questa debolezza, mi viene da dire, porta a sopravvalutare noi stessi, cioè ciò comporta non più un anelito al conoscersi o a trovare, a vedere i propri limiti, ma a non avere più limiti, e porta con ciò, cioè porta poi alla conseguenza della violenza. Io vedo che l'uomo è sempre più violento, proprio perché ha sempre più potere. La bomba atomica è l'apoteosi di questa potenza che abbiamo raggiunto, ma che non è andata conforme con anche una conoscenza del proprio sé, del proprio io, e il nostro essere maschile, secondo me oggigiorno è questa prova tangibile di questo senso di onnipotenza che ci porta alla violenza, alla distruzione, alla fine all'autodistruzione, mi sembra di riconoscere. E perciò il limite che lei pone mi sembra molto illuminante, solo che non è diffuso questa coscienza, a parte pochissimi tra di noi si conoscono veramente, e tutta la vita ci vuole per conoscersi, però non rispettiamo neanche i nostri limiti. Mi sembrano cose abbastanza basilari, però non sono diffuse. Grazie. Caro. Ma questo però è legato anche al come viene fatta la proposta della tecnologia. perché è una proposta, come viene normalmente fatta, è profondamente scorretta, come d'altra parte dicono anche molti scienziati, perché è proposta in modo sostitutivo dell'uomo, non come, ecco, vi forniamo uno strumento in più, come quando il primo uomo che l'ha fatto si è appoggiato su un bastone e quindi da lì è partita tutta una storia. No, non ti dicono questo, ti dicono: guarda, noi andiamo a sostituire delle tue fatiche, per cui affidati e vedrai poi che ogni tuo limite sarà superato. Spessissimo c'è questo refrain del superamento della morte, per esempio, che è molto inflazionante naturalmente, perché tende anche qui a far perdere all'uomo la relazione con un campo estremamente vitale che è quello della morte, è quello di tutta l'esperienza legata alla morte, alla malattia, alla fine della vita, al mondo dei morti, eccetera. È un'amputazione, per certi versi definitiva, dell'equilibrio umano, per cui se tu perdi quel rapporto. Elia Scanetti diceva: beh, ricordiamoci che il popolo dei morti è molto più numeroso di quello dei vivi, quindi così come la quantità di natura incontaminata è molto più forte della quantità di terra, come dire, urbanizzata, quindi teniamo presente questi. E quindi è un messaggio, così come l'uomo è un animale è un essere capace di tecnologia, perché ha questo cervello e animo assolutamente particolare e quindi ha una capacità di dominio anche delle forze, degli strumenti assolutamente particolari, che va riconosciuta perché è una sua parte. Però è una sua parte, è un suo strumento, non deve diventare sostitutivo della sua esperienza umana. Questo per tornare anche a quello che si diceva prima. E quindi è molto importante quello che noi possiamo fare, anche proprio come cittadini, è richiamare la scienza ai suoi limiti e alle sue funzioni, che è quella di, sono quelle di aiutarci, non di sostituirci o di diminuire le nostre funzionalità. E quindi ci devono lasciare lo spazio per questo. Per esempio, tornando alla domanda di prima, lo strumento dei questionari con sì o no deve essere limitato fino a un certo punto. Non può tutto diventare così, non può tutto l'insegnamento diventare così. E noi come cittadini dobbiamo ribellarci, dicendo: no, scusi, io questa cosa non la compilo. Bisogna arrivare a delle manifestazioni di disobbedienza civile di questo genere, se no non andiamo da nessuna parte nei confronti da questo punto di vista. Noi dobbiamo limitare il tempo rubato, che ci viene rubato da queste stupidaggini. Assolutamente, non possiamo diventare dei pappagalli che riducono il loro linguaggio a un sì o un no. Per cui, qui però dobbiamo pensarci. E questo è legato al processo individuativo, non è una cosa diversa. Dobbiamo pensarci come cittadini dell'oggi. Purtroppo da aggiungere un limite, che è Cronos. Beh, ma Cronos è un amico, un compagno. In questo caso no, non c'è amico in questo momento, perché dobbiamo concludere, mi dispiace molto. No, quindi ti ringrazio e invito comunque a chi ha ancora molteplici domande, suppongo, o di scriverci direttamente anche sul nostro sito su Facebook, e poi chi avesse veramente intenzione e si sente incuriosito dal seminario di sabato, Renato, se può, è a disposizione. Vi aspettiamo comunque al centro, via Portici 51. Grazie.